Capitolo 108. Tantalo. Le origini di Tantalo sono assai discusse. Sua madre fu Pluto, figlia di Crono e di Nea, o altri dicono di Oceano e di Teti, e suo padre fu Zeus oppure Tmolo, il dio incoronato di foglie di quercia del monte Tmolo, che con la moglie Onfale regnò sulla Lidia e fu giudice nella gara tra Pan e Apollo. Alcuni tuttavia chiamano Tantalo un re di Argo o di Corinto, e altri dicono che da Sipilo, in Lidia, egli si diresse verso il nord e regnò in Paflagonia. Di lì, dopo essere incorso nell'ira degli dei, fu scacciato dal frigio Ilo, poiché aveva rapito e sedotto il fratello minore di lui, Ganimede. Da sua moglie Eurianassa, figlia del dio del fiume Pattolo, oppure da Euritemiste, figlia del dio fiume Xanto, oppure da Clizia, figlia di Anfidamante, oppure dalla Pleiade Dione, Tantalo ebbe tre figli, Pelope, Niobe e Brotea. Taluni dicono invece che Pelope fosse un bastardo, oppure figlio di Atlante e della ninfa Lino. Tantalo, intimo amico di Zeus, fu ammesso ai banchetti di nettare e ambrosia sull'Olimpo finché non si lasciò montare la testa da tanta fortuna e tradì i segreti di Zeus, rubando il cibo divino per distribuirlo ai suoi amici mortali. Prima che questo delitto fosse scoperto, Tantalo aveva fatto anche di peggio. Invitati gli dei a un banchetto sul monte Sipilo, altri dicono a Corinto, Tantalo si accorse di non avere provviste di cibo sufficienti e, sia per mettere alla prova l'onniscienza di Zeus, sia per eccesso di zelo, tagliò a pezzi il figlio Pelope, lo fece bollire in un calderone e ne servì le carni in tavola, così come avevano fatto i figli di Licaone con il loro fratello Nittimo nel corso di un banchetto offerto a Zeus in Arcadia. Tutti gli dei si resero conto di ciò che stava sul loro piatto e si astennero inorriditi dal mangiarne, salvo Demetra che, ancora assorta nel suo dolore per la morte di Persefone, mangiò la carne della spalla sinistra di Pelope. Per questi due misfatti Tantalo fu punito con la distruzione del suo regno e dopo la morte, per espressa volontà di Zeus, con un'eterna tortura, unitamente a Issione, Sisifo, Tizio, le Danaidi e altri. Ora egli, tormentato dalla fame e dalla sete, è appeso ai rami di un albero da frutto che si allungano sopra una palude. L'acqua della palude gli giunge talvolta alla vita e talvolta sino al mento, ma ogni volta che Tantalo si china per berne un sorso, subito l'acqua si ritrae e non rimane altro che nero fango ai suoi piedi. Oppure, se gli riesce di raccoglierne qualche goccia nelle mani, se la vede scivolare via tra le dita e non può far altro che umettarsi le labbra, mentre la sete diventa ancor più tormentosa. L'albero è carico di pere, di lucide mele, di dolcissimi fichi, di ulive mature e di melegrane, ma ogni volta che egli allunga la mano verso quei frutti invitanti, un soffio di vento li fa cadere lontano. Inoltre, un enorme masso roccioso, preso dal monte Sipilo, incombe sull'albero e minaccia ogni momento di schiacciare il cranio di Tantalo. Questa è la punizione per un terzo crimine, un furto aggravato da spergiuro. Un giorno, quando Zeus, ancora bambino, era allattato in Creta dalla capra Amaltea, Efesto trasformò Rea in un mastino d'oro perché lo sorvegliasse. Il mastino divenne poi guardiano del tempio di Efesto sul Ditte, ma Pandareo, figlio di Merope, nativo di Mileto di Lidia o forse di Creta, a meno che non fosse di Efeso, osò rubare il mastino e lo portò a Tantalo perché lo custodisse sul monte Sipilo. Calmatisi l'indignazione e i clamori, Pandareo chiese a Tantalo di restituirgli il mastino, ma Tantalo giurò per Zeus di non aver mai visto un cane d'oro né udito parlarne. Quel giuramento giunse alle orecchie di Zeus ed Ermete, ebbe l'ordine di indagare sulla faccenda. Benché Tantalo continuasse a spergiurare, Ermete ritrovò il cane con uno stratagemma e Zeus schiacciò Tantalo sotto un masso del monte Sipilo. Se ne mostra ancora il luogo presso il lago Tantalide, rifugio delle aquile bianche. In seguito Pandareo e sua moglie Ermotoe fuggirono ad Atene e di lì in Sicilia, dove perirono miseramente. Secondo altri, invece, fu Tantalo che rubò il mastino d'oro e lo affidò a Pandareo, il quale, continuando a negare di averlo ricevuto, venne annientato assieme alla moglie dagli dei irati e trasformato in pietra. Ma le figlie orfane di Pandareo, Merope e Cleotera, che altri chiamano Camero e Clizia, furono nutrite da Afrodite con formaggio, miele e vino dolce. Era le dotò di bellezza straordinaria e di intelligenza più che umana. Artemide le fece crescere forti e robuste. Atena le istruì in ogni arte manuale. È difficile capire perché le dee mostrassero tanta sollecitudine e Afrodite si incaricasse di placare l'ira di Zeus, combinando per le orfane degli ottimi matrimoni, a meno che naturalmente esse stesse avessero incoraggiato Pandareo a commettere il furto. Zeus tuttavia sospettò qualcosa, perché mentre Afrodite si era ritirata con lui sull'Olimpo, le arpie si impadronirono delle fanciulle con il suo consenso e le affidarono alle Rinni, che le fecero soffrire in punizione dei peccati del padre loro. Pandareo era pure padre di Aedone, moglie di Veto, dal quale ebbe un figlio, Itilo. Aedone era rosa da invidia per sua sorella Niobe, che godeva nell'amore di sei figli e di sei figlie. Tentò di uccidere il maggiore di essi, Sipilo, ma per errore soppresse Itilo. Zeus allora la trasformò nell'usignolo che, all'inizio dell'estate, piange ogni notte il suo fanciullo assassinato. Dopo aver punito Tantalo, Zeus si compiacque di far rivivere Pelope. Ordinò dunque a Ermete di raccogliere i suoi resti e di farli bollire nel medesimo calderone, e su di esso pronunciò una formula magica. Cloto, la dea del destino, ricompose allora le sue membra. Demetra gli diede una spalla di solido avorio in cambio di quella che aveva spolpato, e Rea soffiò in lui la vita mentre Pan danzava per la gioia. Pelope emerse dal calderone adorno di così splendente e radiosa bellezza che Posidone tosto si innamorò di lui e lo trasportò sull'Olimpo in un carro trainato da cavalli d'oro. Colà lo nominò suo copiere e compagno di letto, come Zeus in seguito fece con Ganimede, e lo nutrì di ambrosia. Pelope si accorse di avere una spalla d'avorio soltanto quando si denudò il petto per piangere la morte di sua sorella Niobe. Tutti i legittimi discendenti di Pelope recano quel segno, e dopo la sua morte la spalla d'avorio fu portata come offerta votiva a Pisa, Olimpia. Frattanto la madre di Pelope, Eurianassa, lo cercava affannosamente ovunque, ignara che egli fosse salito all'Olimpo. Venne a sapere dagli sguatteri che Pelope era stato tagliato a pezzi e messo a bollire e servito agli dei, i quali, a quanto pareva, avevano divorato la sua carne fino all'ultimo boccone. Questa versione della storia si diffuse in Lidia. Molti vi credono ancora e negano che il Pelope che Tantalo fece bollire nel calderone sia il medesimo che a lui successe. Brotea, l'orrendo figlio di Tantalo, scolpì la più antica statua della madre degli dei, che ancora si trova sulla roccia di nome Coddino, a nord del monte Sipilo. Egli era un cacciatore famoso, ma rifiutò di onorare Artemide, che lo fece impazzire. Gridando a gran voce che nessuna fiamma poteva bruciare il suo corpo, si gettò su un rogo e lasciò che le fiamme lo divorassero. Altri tuttavia dicono che egli si uccise di proposito, perché tutti lo odiavano per via della sua bruttezza. Il figlio ed erede di Brotea fu chiamato Tantalo, come suo nonno. Secondo Strabone, Tantalo, Pelope e Niobe erano frigi. Egli cita Demetrio di Schepsi e anche Callistene, i quali dicono che la famiglia di Tantalo aveva accumulato grandi ricchezze con le miniere della Frigia e del monte Sipilo. D'altro canto, nella Niobe di Eschilo si dice che i Tantalidi innalzarono un altare a Zeus, loro dio genitore, sul monte Ida, e che il Sipilo è situato nella terra idica. Democle, che Strabone cita di seconda mano, cerca di spiegare in modo razionale il mito di Tantalo e dice che il suo regno fu funestato da violenti terremoti in Lidia, nella Ionia e fino alla Troade. Interi villaggi sparirono, il monte Sipilo crollò, gli stagni si trasformarono in laghi e Troia fu sommersa. Secondo Pausania, inoltre, una città situata sul monte Sipilo sparì in una voragine che in seguito si riempì d'acqua e divenne il lago Saloe o Tantalide. Le rovine della città si potevano ancora vedere sul fondo del lago, finché le sue acque non furono intorbidate dai depositi di un torrente montano. Plinio conferma che Tantalo fu inghiottito da un terremoto, ma dice che tre altre città furono costruite successivamente nello stesso luogo, prima che un'alluvione le sommergesse per sempre. Il punto di vista storico di Strabone, anche se archeologicamente plausibile, non tiene conto dei rapporti di Tantalo con Argo, Corinto e la cretese Mileto. Il masso che incombe su di lui nel Tartaro, sempre sul punto di cadere, lo identifica con Sisifo di Corinto. L'eterno tormento di Sisifo, analogo a quello di Tantalo, fu dedotto da una medesima scena raffigurante il titano solare mentre spinge faticosamente il disco del sole su per l'erta del cielo fino allo zenith. Lo scoliasta di Pindaro si rese vagamente conto di questa identità, ma spiegò in modo razionale il tormento di Tantalo dicendo che, secondo taluni, il masso rappresenta il sole e Tantalo, un fisico, deve scontare quella pena per aver dimostrato che il sole è una massa di metallo al calor bianco. L'immagine del sole titano è stata poi confusa con un'altra, quella di un uomo che agonizza in un viluppo di rami carichi di frutti immerso nell'acqua fino al collo. Questa tortura, secondo i retori, spiegava allegoricamente quale destino attendesse i ricchi e gli avidi. Le mele, le pere, i fichi, eccetera, che oscillano dinanzi al viso di Tantalo, sono chiamati da Fulgenzio frutti del mare morto, e di essi Tertulliano scrive che, appena sfiorata con un dito, la mela si trasforma in cenere. Per capire il significato di questa scena bisogna ricordare che il padre di Tantalo, Tmolo, è descritto come incoronato di foglie di quercia e che suo figlio Pelope, il quale ebbe un nipote a sua volta chiamato Tantalo, fu onorato a Olimpia con riti eroici, cui prendeva parte Zeus guardiano. Dato che, secondo un'opinione comunemente accettata, i criminali puniti nel Tartaro erano dei o eroi dell'epoca preolimpica, Tantalo con ogni probabilità rappresentava il re solare, vestito con rami carichi di frutta come quelli portati in trionfo alle oscoforie e che erano poi gettati nel fiume come farmacoi, usanza sopravvissuta nel rito del Giorgio Verde nelle campagne balcaniche descritto dal Frazer. La versione popolare della leggenda ha impedito per molto tempo agli studiosi di rendersi conto che il tormento di Tantalo non era provocato dalla sete, ma dalla paura di annegare oppure di essere immolato su un rogo, così come accadde al suo orribile figlio Brotea. Platone è probabilmente nel giusto quando fa derivare Tantalo da Talantatos, l'infelicissimo, con la stessa radice tla, soffrire o sopportare, che troviamo nei nomi di Atlante e di Telamone, ambedue eroi boscherecci, della quercia, ma Talanteuein significa pesare denaro e Talanteustai può significare bilanciarsi da una parte all'altra, e tale era la camminata del re solare con una gamba zoppa. Pare dunque che Tantalo fosse sia un titano solare sia un re dei boschi, il cui culto fu portato in Grecia dall'Asia Minore attraverso Creta. Pandareo è descritto come cretese verso la metà del secondo millennio prima di Cristo e rifiorì alla fine di quel millennio quando il crollo dell'impero ittita costrinse i ricchi coloni di lingua greca ad abbandonare le città dell'Asia Minore. Quando i mitografi dicono che Tantalo era spesso accolto come ospite nell'Olimpo, ammettono che il suo culto fu un tempo predominante nel Peloponneso, e benché i banchetti che gli dei offrivano a Tantalo siano ben distinti dal banchetto che Tantalo offrì loro, in ogni caso il piatto principale deve essere stata l'identica umile zuppa di carne che i cannibali pastori arcadi del culto della quercia preparavano per Zeus Lupo. Non si tratta forse di una coincidenza se in Normandia il Giorgio Verde è chiamato Lupo Verde e un tempo era gettato vivo nei falò di mezza estate. Tuttavia la leggenda di Pelope divorato non è da mettere in rapporto con il culto del lupo. Il fatto che egli fosse il mignon di Posidone, il suo nome faccia oscura e la leggenda della sua spalla d'avorio indicano piuttosto il culto del pesce porco diffuso nell'istmo. Delfino in greco indica anche il pesce porco e lasciano supporre che il palladio, ricostruito con le ossa, fosse un oggetto di culto fatto in avorio di pesce porco. Ciò spiegherebbe perché, secondo lo scolio a Pindaro, Teti, la dea del mare, non Demetra, mangiò la spalla di Pelope. Ma l'antica statua di Demetra dalla testa di giumenta a Figalia reggeva una colomba in una mano e un delfino, o pesce porco, nell'altra. E come Pausania dice chiaramente, perché la statua fosse così scolpita lo può capire qualunque persona di intelligenza normale che abbia studiato mitologia. Egli allude cioè al fatto che la dea presiedeva al culto del cavallo, al culto della quercia e al culto del pesce porco. Questo antico mito mise nell'imbarazzo i mitografi delle epoche posteriori. Non contenti di aver assolto Demetra dall'accusa di aver mangiato deliberatamente carne umana e negando indignati che gli dei divorassero sino all'ultimo boccone tutto ciò che si metteva loro dinanzi, inventarono una interpretazione ultrarazionale della leggenda. Tantalo, essi scrissero, fu un sacerdote che rivelò i segreti di Zeus ai non iniziati. Allora gli dei lo sconsacrarono e colpirono suo figlio con una ripugnante malattia, ma i chirurghi lo curarono praticandogli degli innesti ossei e il ragazzo rimase segnato da numerose cicatrici, tanto che pareva fosse stato tagliato a pezzi e ricomposto. Il furto del mastino d'oro compiuto da Pandareo può essere considerato una ripetizione del furto di Cerbero compiuto da Eracle e lascia supporre che gli Achei osassero sfidare la maledizione mortale simboleggiata da un cane, impadronendosi di un oggetto del culto sacro alla dea della terra Rea, nonna di Tantalo, e che conferiva poteri sovrani a chi lo possedeva. Le dee dell'Olimpo, è evidente, avevano incoraggiato Pandareo al furto e il cane, benché proprietà di Rea, custodiva il santuario di Zeus Cretese destinato a morire ogni anno. Il mito pare alludere così non a una profanazione del santuario di Rea compiuta dagli Achei, ma al temporaneo recupero di un oggetto del culto da parte dei fedeli della dea. La natura di tale oggetto rubato è discussa. Può darsi che si trattasse di un agnello d'oro, simbolo della sovranità dei Pelopidi, o dello scettro sormontato da un cuculo che Zeus rubò a Era, o del palladio in avorio di pesce porco, o della borsa dell'Egida con il suo contenuto segreto, a meno che questa non sia una versione del mito celtico di Amataon ap Don, che rubò il cane di Araun, eloquenza, re di Annaun, Tartaro, e fu così in grado di indovinare il nome segreto del dio Bran. Le tre figlie di Pandareo, una delle quali, Camero, porta lo stesso nome della più giovane delle tre parche rodie, sono la triplice dea, qui umiliata da Zeus per la ribellione dei suoi fedeli. La lealtà di Tantalo nei confronti della dea si rivela nella leggenda di suo figlio Brotea, che ne scolpì una statua sul monte Sipilo, e di sua figlia Niobe, sacerdotessa della dea bianca, che osò sfidare gli olimpici. Erano a lei sacri i bianchi cigni aquile del lago Tantalide. Il nome della madre di Tantalo, Onfale, fa pensare a un oracolo ombelico come quello di Delfi. L'annuale Pharmacos era scelto per la sua estrema bruttezza e ciò spiega la fine di Brotea. Si sa che in Asia Minore il Pharmacos era dapprima percosso sui genitali con un bulbo di giglio al suono di flauti. Tantalo e suo padre Tmolo sono ambedue associati nella leggenda ai flauti lidi, poi bruciato su una pira di legno di bosco. Le sue ceneri erano in seguito sparse nel mare. In Europa le varie fasi del rito si susseguivano in ordine inverso. Il Giorgio Verde Pharmacos era dapprima tuffato nell'acqua, poi battuto e infine bruciato.